Come si chiama lei il suo cagnolino? Spanky? Che carino. E quanti anni ha? 75. Il suo cagnolino? 6 il mese prossimo. Bene. Quando li compie? L'8 dicembre. Come me! Spanky! Io e te compiamo gli anni insieme. È anche festa. Ah, da quanto vive qua Alzana? Io? Da 6 anni. Ok, ma prima quando è che... Dov'è? Poi mio figlio abita qui sopra e allora ho voluto che venga. Ah, ok. E vi trova bene Alzana? Sì.